Antonello, ero qua posando, stavo aspettando a iniziare a cucinare e ho sentito fischiare la portante di tu, dai. No, stavo salvando l'antenna del Mofeng, quello del modello W5N2+. L'ho fatta diventare nuova, e c'era il, come si chiama, la saldatura dove c'è condensata la pastiglia, quello piccolino che poi va incontro alla bobina, che non si staccava ogni tanto. Adesso invece l'ho saldato bene, ho smontato tutto, ci ho infilato dentro, ci ho messo silicone, adesso è a posto, tanto come se fosse nuovo. Cioè l'antenna originale, no? E dimmi una cosa, dentro ha dei componenti per caso? Sì, c'è un condensatore a pastiglia all'interno, che passa da più alla bobina, in pratica, hai capito? C'è un condensatore in una pastiglia, c'è. Adesso mi ricordo che spirale della bobina è, perché non ho fatto i calcoli, però mi avevano fatto un disegno, nel caso devo costruirmela una, me la costruisco. Anche con la, vabbè, l'antenna già lì non è quello il problema. Cioè, l'antenna quella VU più corta come si chiama, l'altra a pietro, un amico mio, e delle, come si chiama l'apparecchio, aspetta, lo dico subito. Nello standard VU è un'antenna più corta, più grossa, e l'ho messa nella magnetica e usa quella lui, esce benissimo. No, te l'ho chiesto perché siccome il Baofeng con l'antenna sua va bene, anche se sei in alto, no? In posizione alte, prende bene. Come dimentichi un'antenna esterna, anche piccola, comincia a essere assordato, gli fa battimento tutta la roba che c'è in aria, no? Che siano radio, che siano cellulari, no? E quindi qualcuno ipotizzava che nell'antenna originale del Baofeng non ci sia una sorta di filtrino passabanda, perciò ti ho chiesto se c'erano componenti all'interno. Sì, c'è un condensatore, passa dalla massa al più, in pratica l'antenna lavora in corso. La bobina in pratica, che quella che c'è dentro, è collegata alla massa, poi dal positivo c'è saranno 5-6 cm di cavetto, dopodiché c'è il condensatore a pastiglia collegato alla bobina, che adesso non mi ricordo la spirale qual è, gli faccio la foto di questi giorni. Così almeno te ne dicono anche tu, nel caso se lo avessi, perché capita a volte quando piazzano, come si chiama, lo metti da una parte all'altra, il Baofeng comincia a smuovere l'antenna, eccetera, eccetera, si stacca, capito, il condensatore, o da giù o da sopra. Bisogna avere un po' cura di quelle antenne, se no sì, bisogna sempre metterle a posto. E visto che i tuoi erano anche consumati, belli grattugiati, dai, i miei sono nuovi di negozio, d'altronde io non è che li uso per lavoro, io li compro per guardarmeli, tipo soprammobile. Ah, io li ho usati per lavoro, io ho passato quei due W5N2+, la verità, poi c'ho gli altri Baofeng, gli altri due, quelli gli 888, quelli in pratica li sto usando per lavorare adesso, per fare i lavori, e gli altri, gli V5 di più li sto usando più che altro per stare in casa, capito, per non consumare del tutto, se no non mi rimane un cazzo, mi rimane a un certo punto. Vabbè, poi io vado a c'è gli H e le W, come portate, diciamo, uguali all'888, come ne ho fatti Carlo, li ho regalati a lei, poi i 2888 li avevo regalati a Antonello, dove lavoro io, capito? Li usiamo più che altro per l'estate, quando dobbiamo stare pranzi, cene, capite, ci sono 30 persone per non stare a mettere a voce, oh, passami, oh, mi servono due piatti, due bicchieri, diciamo, portate le tac, e siamo a posto. Mi pare che dove che lo usano così, al tie break, ho visto che con le cameriere hanno un portatilino attaccato alla cintura. Non so se sia un Retevis oppure un Polmar, non me lo ricordo. Che lo usano per prendere le ordinazioni certe volte, capito? Per se sono distanti, no, dalla cucina, dalla cosa, si scambiano messaggi con quello, dai, immediati. Quello c'è anche lì, non sa per questo le casse, no, è attacco. Lui che prende il pulsantino nell'orecchio, quando lo chiamo prende e parla, sì, ah, c'è problema, eccetera, eccetera, tutto a posto. Bella giornata oggi, 18 gradi all'ombra, un po' di venticello leggero, però un bel sole. Oggi era bella da uscire, ma credo che qua non hanno organizzato niente, allora niente da fare, vediamo domani se riusciamo ad andare in campagna. Adesso mi cominciamo a mettere l'acqua sul fuoco, ci facciamo una bella pasta, come dico io, è una variazione alla pasta aglio e olio. Ci metto anche, quindi, aglio, olio, prezzemolo, parmigiano e pepe nero. Un bijou. Sì, tipo carbonara. Una volta la fanno con pepe, ora di mal di tutto, cioè, ci facciamo carbonara con pepe, vai, aiuto, me lo metto, ma neanche scherzando, ho detto mettimi una cosa del genere, mi ha fatto male a me pepe nero, ma che ha fatto, di solito ho detto, dopo non la farei, ma mai mi ha fatto una cosa del genere, ho detto male, detto, nella pasta, e tu lascia perdere, me la farei, cioè, me lo metto io, se ne ho bisogno, se no neanche ne metto, mi hanno fatto male davvero, mica, mi sono sentito male la notte, mi hanno quel pepe nero, e se no mi fa male anche il coso, a volte a me, finché i crackers, quelli salati, quando li mangi, ieri mi hanno fatto male, crackers, mi sono bevuto una bottiglia di birra, ma ieri mi sono mangiato 6 pacchi di crackers, ma avrei mal di testa così forte. Sì, un po', sei un po' delicato lì di stomaco, non so perché. E ti volevo chiedere, avevi poi controllato il collo, quel gonfiore al collo che avevi, cos'era? Ma quello già è sceso, meno male. Quello più che altro sono le vene che quando c'hai il colesterolo molto alto, capito, si ingrossano, eccetera, eccetera. Grazie a Dio, adesso si è abbassato di parecchio. Ho fatto la cura di verdura, ho fatto, cazzo. Di tutto, tonno, a un certo punto tu mi è uscito da me che ha detto mamma fanculo, tu e il tonno, io ho preso e se l'ho aggiurampato. Mi sono mangiato la pasta normale, che cazzo pasta a cosa, di quella marrone. Adesso mi prova la pasta con la farina di grillo e vedere come ne esci, diventi un grillo, diventi, cominci a saltare. Se me lo vanno per il pisello per farmelo in giovanili, 20 anni, guarda, io potrei anche usarla quella pasta di grillo, guarda. Basta che faccia bene al pene, cazzo, che faccia allungare il pene di 25 centimetri di quello che è. Forse è quella la preoccupazione, la lunghezza del pisello, chissà come ne usciamo qua con queste tensioni NATO Russia, meglio non pensarci. E cosa ti volevo dire, Antonio? Vabbè, che mi ha ricordato, parlando così di portatili, io devo far fuori un po' di mondezza lì, perché l'armadio mio è ingestibile, non posso togliere manco la roba dalla roba che c'è. Stavo cercando di pensare di far fuori qualcosa, pensa che non ho mai più utilizzato, perché qua antenne non ce n'è più, proprio non ce n'è più, antenne VU, nemmeno per ascoltare, avevo tolto tutto, causa lavori. quel cacchio lì devi veicolare micro, che poi altro non è che un portatile camuffato da veicolare, già hai capito, dentro praticamente c'ha il circuito stampato di un portatile, anche quello fare fuori, roba che non serve, a me non serve, non serve più. Per ascoltare era carino, sì, però poi gli metti l'antenna esterna e diventa sordo, allora è inutile averlo. Ma hai provato con la Diamond, con la che ho io dentro a casa? L'hai provato con la Diamond, che modello? X30? È quella che c'ha la bobinetta, c'ha due spine, nello stiro. E poi te la posso prestare, cosa niente, tiro l'attacco a barilotto, cioè a L, non barilotto, a L, e attacchi dietro e profi. No, ma Antone, ce le ho le antenne, c'ho tutto, gli adattatori, il barilotto, il gomito, l'attacco a gomito, e poi mi sono rimaste le antenne, c'ho la Sirio CX440, quella corta, che fa tre quarti d'onda, solo UHF, la devo lucidare bene. E poi io mai utilizzata, solo provata sul tetto, quella famosa Diamond BC202, tarabile, solo UHF, sembra una specie di BC50 come dimensioni, però è tutta in alluminio, come piace a me. Ho capito, questa è una... Che cazzo di marca è, aspetta... Madol antenna c'è scritto qua, VN14. Maldol, Mike Alfa Lima, D non mi viene, vabbè, Maldol con la D. Sì, Madol antenna, VN14, esattamente. Delta, non mi veniva. Lima, Delta, Oscar Lima, ok. Sì, li vendono su AliExpress, non solo. Poi bisogna vedere qual è l'originale, se l'originale è buona, se le copie sono altrettanto buone, cosa che dubito. Va bene, l'altro giorno mi sono controllato le stazionarie con l'antenna diretta, uno sta a uno, non si muovono proprio. Certo, con 4 watt è poco per misurarla, però uno sta a uno, proprio non si muove, non si muove. E se sali il canale avevo tipo 27,990, avevo 1,1 con 3 watt massimo. Ok. Uia. Yeah, va bene. Adesso vediamo un po' di comprarmi. L'altro giorno sono salito sopra il tetto, mi ho attaccato la direttiva, ce la vuoi, ce la piazzo sopra dove c'è il coso, quella che fa la 500, cioè fa 100, da 100 e passa a 520, se non mi ricordo male, pesa 2,5 kg, in acciaio però, non è in ferro smalto, in acciaio. No, non voglio niente sul tetto, basta 5 ottavi, punto. Ma poi sa cosa avevo da parte, dagli anni 80 ce l'ho, mi pare fine anni 80 e inizio 90, una discone, credo della LEM, discone della LEM è quella classica, senza lo stilo verticale, c'ha solo gli stili orizzontali e poi quelli inclinati, mi pare sia massimo alta 80 cm. Però va bene solo per la V e le U, cioè non fa le bande più basse, è troppo corta. Bella, sai qual è? La Sirio SD1003 per ascoltare, ovviamente, che ti fa dai 25 MHz, anche se li farà a cacchio di cane, fino a 1003. È bella alta, amico, c'ha lo stilo centrale anche, oltre quelli stili orizzontali, ed è alto 1,30 m, quella è veramente tutta acciaio inox o quasi, dai, quella è veramente una bella antenna per l'ascolto delle VLU davanti al sul tetto. Anche se tu mi dici è inutile avere un'antenna del genere, se tanto per ascoltare radioamatori, perché ormai solo quelli ci sono in chiaro e non sempre, basta una X30, se anche tarata riceve bene quella frequenza, cioè è inutile avere una discone per ascoltare tutte quelle frequenze intermedie quando non c'è più niente rispetto a non ci sono i cordless, se non ci sono i cellulari, quelli 46, 49, 49, 70, non c'è 77 MHz, sono andati, tutte le bande intermedie, in poche parole, Antonio, sono andate, non, alla fine la discone non serve più. No, io ce l'ho, un X300 sto usando, che pure mi è pesato dato la verità, perché si impinse, si è fumato in pratica, manca l'audio. Dove manca l'audio? Ho visto un rumusci, si impinse, quella pare che dicevo io, si è ben portato, ce l'è presente, c'è display, fa VU. Ah, ho capito, quello, aspetta, come si chiamava, mannaggia, sì, quello micro, faceva 8 watt, quant'erano, faceva VU, e beh, l'audio è andato lì, se vuoi ti do quell'altro, mi ti do quello che usavo io, di cui non ricordo il nome, che faceva VU, però non era a doppio ascolto ovviamente, era solo o una banda o l'altra, capito? E quello funziona, mi c'ho anche due microfoni, c'ho il microfono originale, quello più rustico, e poi avevo preso anche quello un po' più bello, con i tasti più bello, dai. Certo, con modulazione non è molto forte, però tanto, per capirai, per parlare con un PMR ogni tanto ce ne dà avanzo. Se c'è la roba da buttare basta dammela, te lo sto dicendo, se no niente, al limite me la prenderò con l'apparecchio in seguito, solo se c'è la roba da buttare manco, se no niente da fare. Se non te ne fai nulla, che la puoi buttare eccetera eccetera, me lo dici, me la porti e non c'è nessun problema. Io quell'altro ce l'ho lì, adesso vediamo un pochettino, se qualcuno ne ha voglia di aggiustarselo, di mettere di finale audio con il tastito piccolino, perché io sono cieco, le mani mi tremano, quindi da quando mi hanno fatto quel cazzo di mega puntura, il cazzo, e quindi a un certo punto non sapevo saldati una cosa del genere, prima cazzo mi facevo anche di notte, cazzo, c'entravo cazzo il buco del pisello della formica, questo viene male, sempre sono cambiati, una volta che ho fatto quel cazzo di vaccino, boh, arruinato, per poter rimettere a posto dovevo fare ogni volta, come si dice, lavorare e cercare di sistemare i muscoli, infatti dovevo fare palestra per andare bene, il discorso è quello lì, perché senza la palestra non fai un cazzo. A me mi ha indebolito i muscoli e addirittura anche come si chiama tutto. Ma di lato Simona è la stessa cosa, Simona è peggio di me. Simona ormai ci sono giorni che cazzo riesce a camminare, ci sono giorni che non ci riesce, devo accompagnarla, eccetera, eccetera. Quindi figurati tu. Sì, sì, tu sai come la penso sui vaccini, no? E vabbè, preparare le chiappe a chi voleva farsi, capito, voleva essere libero di andarsi a farsi gli aperitivi ai bar, ci siamo dovuti sacrificare un po' tutti, dai, chi più chi meno, dai, ecco. Va bene, Antonio, io vado a cucinare, ok? Ci sentiamo quando capita. Ciao, buona serata. Saluta Simona e Giovanna. Ciao. D'accordo. Sono a casa loro che vado. Devo controllare a Simona qui a un certo punto. Siamo qua a casa. Ti ho detto, se devi buttare quella roba lì, però chiamami e ci vediamo. Ci vediamo una cosa e la recupero, perché altro me la uso, è quello che mi serve per pedire, non c'è un cazzo, tutti stanno lamentando, sono lì, quelli che sono andati a Torino non si trovano più piede, non si trova più un cazzo, nulla, niente, tutti fusano attaccato, sì, a un certo punto, sai cosa sta facendo coso, come si chiama? Ah, fanculo, quello che abita al monte, che parlava Balacchino, via Cazzarella, sta prendendo le PlayStation 1, 2, 3, 4 su eBay, all'asta, cioè il sistema se ne sta vendendo. Sì, Antonio, allora io ho un po' di difficoltà a capirti, perché la modulazione non è di qualità buona, è un po' barattolosa, un po' cupa, e ne capisco la metà di quello che dici. Ho capito PlayStation e basta, è il monte, ho capito, boh. Al monte c'è, già lo sai, come si chiama, si chiama il CB, che modulava al monte, in via Cazzarella. Quello sta comprando PlayStation, lei sistema e se ne rivende da eBay. L'ho trovato l'altro giorno qua al Balmi, sotto casa, figurati. Si chiamava Fanculo, adesso non mi viene in mente il nome. Vabbè, di questi tempi, Antonio, bisogna arrangiarsi, fare qualcosa per arrangiarsi e tirare avanti, siamo qua, la situazione è tribula, bisogna arrangiarsi in qualche modo, farsi qualche soldino, pagarsi almeno, sai, le cose di casa, le bollette. Non dico andare a fare gozzoviglia in ristorante, ma le cose normali per tirare avanti. Ma la tempora curvunt. Ciao Antone, ci sentiamo. Ehi, d'accordo, ci sentiamo. Buon pranzo, buon tutto. Alla prossima. Ah, ricordate che oggi scende quell'aggeggio, ci passa a fianco verso le 8, mi sembra che, così lo vediamo col binocolo. Quell'aggeggio? Ah, io ho letto giorni fa qualcosa, era passato anche giorni fa, ma tu ti riferisci alla ISS? No, al cantone che ci sta arrivando. Ah, l'asteroide, ma speriamo che si becchi in pieno, ma in pieno mi, così abbiamo finito di soffrire. Oh, io spero che arrivi lì a Cremlino, la verità, che lo prenda in pieno in modo da dare del suolo direttamente il Cremlino, quello che c'è, poi vediamo come la mettiamo, quando non ci rimane più nessuno dentro la quel cazzo di caseggiato. Ah, vabbè, non so perché mi era venuto in mente l'ISS, perché giorni fa ha fatto un passaggio molto col cielo limpido sull'Italia, mi pare passava da sud-ovest a nord-est, passava proprio sopra di noi, chissà quelle orbite strane, no? E doveva comparire come un punto luminosissimo, e se prendi il binocolo o un telescopio, anche quelli per ragazzini, riesci a vederlo discretamente bene, riesci a vedere la struttura di come è fatto, dai. Va bene, di nuovo Antone, ciao, buona serata, ciao. Ascolta, se ti serve un monitor per il computer te lo sto regalando, è un Akai, siccome per la TV non va bene, ci vuole il decoder, c'ho il telecomando, c'ho tutto, vieni te lo prendi, è un 17 pollici, tanto ce l'ho qui buttato, è inutile stare a, se me lo tengo a guardarmelo la mattina appena mi alzo in cameretta, se ti serve, con il monitor del computer vieni te lo prendi, non voglio niente. No Antone, no, niente più computer assemblati o fissi, solo portatili, roba piccola, perché qua non fa, poi l'assemblato è pesante, quindi tutto tolto, tutto fatto piazza pulita, il portatile e lo smartphone, basta, sennò non è gestibile. Ciao. Ok, va bene, se stavo regalando, non c'è problema, poi se per qualcuno se lo porterà via. Fate solo qua buzzato. Ok, ciao, buon pranzo, se no cazzo, oggi non mangi di più o meno. Hola. Hola. C'è qualcuno qua? Attenzione al canale 10. Chi è avanti? Ciao Contadino. Ah, già. E allora? Non c'è nessuno. Negativo, nessuno. L'ho acceso poco fa, ma ho fatto un paio di chiamate, ma non è entrato nessuno. Stai uscendo con l'alternata? Con l'alternata? No, alternato. Non ti capisco, sai, la voce è losca. Voce? È una radio brutta, sai. Guarda, vedi tutto quello che sta succedendo. Guarda adesso. Prova, fa un passaggio più lungo. Tu stai facendo tutta per macchine, dipende da te, Natali. Adesso sto uscendo bene, bene va. Adesso sì. E il macchine è troppo alto, avevo. E a me bene mi senti adesso. Eia. Invece così mi senti male. E poco fa ti sentivo male, non si capiva quello che dicevi. E vabbè, finita adesso, vedi, farmi tutto. Cambiato la lenzuola, tutta la casa mi è pulita un casino. Finita là, seguo per il bar. Questa è la seconda lavatrice che faccio qui. Attari. Oui. Visto là è a Cicco. No, non ho visto niente, non ce l'ho Cicchito, non mi vado a entrare. Ma te l'ho mandato io a Cicco, non l'ho visto. No, negativo, non mi fa entrare. Boh. Che strano, ma se ti ho mandato il link. Ma non me lo apre, è inutile che me l'hai mandato. Ah, non te lo apre? Ah, oh, no. Boh. Stranissimo. Forse perché non c'hai TikTok, non riesci a aprirti. No, adesso ce l'ho TikTok. Quindi. Però non me l'ha aperto. Non dacci. Vabbè, comunque è simpaticissimo Gico. Se ti capita può pagare l'over de parrocchetto dal collare, quello che c'ha il collare nel collo. Sono dentro TikTok, però non me l'ha fatto, non me l'ha aperto quello che mi hai mandato tu. Secondo me ti può essere un invalido. Adesso ci provo. Strano. Io per dire Antonio li rimando e li riapro. Ti mando i link da cosa e li riapro. Ma se io non c'avevo l'applicazione, inutile. Ah, ecco. Non mi rimandi, di non viraggio di TikTok cosa mi rimanda a fare. Adesso me l'ho messo nel telefono. Vediamo un po' se me lo apre questa cosa qui che mi hai mandato tu. Eia. Per il resto tutto pirata. Eia. Mezzura. Sta entrando poca gente, non capisco il perché. Attention my friend, Italy from Sardinia. Allora si sentono, a me non ci sentono. O fanno finta di non sentirci. Hai visto Natale in Francia che la Zofendi per la pensione? Stava distruggendo mezza città. E tutta la Francia bloccano. Altro che. E poi 64, noi siamo a 67. Si poco poco di dire 67 incendiani da ancora in pena. Addirittura i poliziotti che stavano combattendo contro i dimostranti si sono aggregati ai dimostranti, si sono messi a fare manifestazione con loro. E perché la pensione tocca anche a loro a 64, non ha compreso nulla. E se l'ho già detto uno, non vogliamo fare la fine dell'Italia. E perché lo sanno che siamo mal pagati e tutto. Ah, c'è tutto il popolo, c'è, tutti quanti in massa, ma c'è la gente che via. Infatti, iaia. A te non ti ho per esempio, non me lo apre, manco si ti ammazzi, te mi apri a sa cosa, ma chi si va a pagarlo mi sbaglio. Peccato. E dici amore mio. Amore mio. Già lo so, io ho toccato il link, però anche se ho toccato il link non mi dà. Mi manda su TikTok, però Nisba. E allora se c'è TikTok prima o poi già lo vedi, si chiama Cicco, già lo vedi, lei è sarda la padrona, però abitava a Torino e gli hanno regalato, l'ha fatto grande lì, ma tu devi vedere, fa proprio le conversazioni, Gic Monello, dice Monello, ciao amore mio, gli dice, poi chiama Marilla, chiama i cani, lui, guarda, è spigliato questo pappagallo che è una cosa, non credo. Io ho trovato a Luca, lo vedi? Ah, mi scarica l'app qua, chissà cosa vuoi caricare. Sarà qualche cosa di sassanese magari. Non c'è un codice QR per scaricare TikTok. Ma ci sto qui anch'io. Ho piazzato il coso del water, Natalia. Fate che si muove. E cosa? Ho piazzato il coperchio del water, l'ho stretto forte e si muove la sera. Bodino ti è stato bene, o noi di la misura gioia. Maria. No, ho piazzato bene, è piazzato bene, ho guardato nel fuglio come volevano messi i pizzi. C'era il fuglio dentro, tutta la piantina come mettere i pizzi, e dopo ci sono 4 metri, non è che sia... Ci sono i perni, le cose, le rondelle di plastica, una va sopra e una sotto. E cosa c'è? Non c'è niente di difficile da me. Le ho strette a morte. Posso. Si svitta, non mi dà su. Ma guarda che no, magari hai sbagliato mettendolo. Ma non cambia così. Mettendo i pirni. No, i pirni li ho stretti. Li ho stretti forte, li ho presi al centro, li ho stretti con la pinza, figurati. Ma forse hai sbagliato mettendoli. Guarda che ci sono due posizioni nei cusi, nei pirni. Già lo so, l'ho messo quella dove combaciavano i buchi. Che vuoi che ti dica allora? E vabbè, ce la terremo così. E no, poi si muove tutto gatto, si muove con di mano quello lì. A meno che non gli metti un controdato per non mollarsi. Praticamente è quello di legno, non è di ghisi di plastica, è di quelli di legno, di quelli meno. Sì, come quello che c'ha preso io. Adesso li fanno anche in plastica dura, che dice che è meglio del legno, che praticamente non si ingiallisce. Sì, l'ho preso così io ce l'avevo in legno e mi si è praticato. No, a me non il coperchio, le cerniere si sono rotte, però non sapendolo, quel brico che c'è via Bugino, le vende le cerniere, se lo sapevo non ce l'avrei buttato, erano buone. Infatti, a me le cerniere lo stesso mi sono crepate, perché erano in acciaio, chissà cosa gatto è, ci sono crepati così, non era materiale buono. Allora, è una lega, Natali, che acciaio, questa in acciaio non si sarebbero rotte, l'acciaio a rompersi è difficile, è una lega, con le leghe leggere, capito? Si facciano subito. Aspetta un attimo, ripongo lo squelci che dà anche fastidio a mia moglie. Ecco qui, così fare il mini FM, va a fanguarlo. Ma mi sente a me, sì. E ti do con rispondenti, sì. L'ho misurato al segnale tuo. Vabbè. Cesar che quando è ieri e tu mi hai detto dopo già sono all'ascolto, invece avevamo messo tutto in macchina, non ha ripreso nessuno, chiamando 3 ore, niente da fare, e io stavo andando a prendere a Elena. Perché io mi sono curicato presto, ho mangiato e poi mi sono subito curicato, non mi sentivo tanto bene, no? Questo gattaro non mi vuole passare più. Ascolta, non hai preso qualche sciroppo? Ah no, tu sciroppo non è più biglia. Già ce l'ho, bisogna il link, cosa prendo. ma non lo puoi prendere tu lo sciroppo perché è dolce, Natale, c'è solo zuccheri. Ah, che per i diabetici, quello che ho io. Già lo posso umiliare, solo non mi ha fatto effetto. È proprio perché non ci sono gli zuccheri, non ti ho fatto effetto. È lo zucchero proprio che riesce a far sciogliere il catarro. Ma io non ne posso umiliare gli altri sciroppi, chi sono su? Ah, non è tu, gli sciroppi, nisba, niente. L'unica cosa che non posso prendere di medicina sono gli sciroppi. Che cosa dobbiamo fare? Ci dobbiamo ammazzare? Vabbè. Prova con il miele, latte caldo, latte lì, provato. Sì, ho provato, ma non mi ha fatto nulla. Non so se non ne ho, vedi. Però deve essere la sigaretta, deve essere. Oh, yeah. Ma sono pazzito la sigaretta. Ma io sono pazzito. Ancora non l'hai compreso, no, che se la devi rampare. Io lo so, un po' difficile è alla pazzia. Non ci riesco più, prima cazzo smettevo di colpa, adesso non ce la faccio più proprio. Ma cosa so così sempre per me, no, che cazzo si cimiglia neri nevi, ebrei e balle varie, e praticamente non ce la fai a smettere, non sei tranquillo? Quando stavo dicendo a Tari, mamma diceva una frase, volere e potere. E infatti, solo che non sei tranquillo, cioè ti sto dicendo che smettevo senza niente, smettevo di colpo e non ne fumavo più, allora vai, non ce la faccio più, non ce la faccio, cazzo. Vabbè, purtroppo ci vuole solo, non è il fatto di fartelo dire, ci decide di decidere tu a farlo, mi capito? Se te lo dico gli altri è peggio, invece se decidi tu come ho fatto io, ha giustato tutto un pacchetto di sigarette, l'ho comprate, me ne ha acceso una, l'ho rotta a metà, poi ho preso tutto il pacchetto, tutto stracciato, dal giorno non ne ho più toccato. Ehi, lo so, però cazzo, se non sei tranquillo non riesci a farli i gol, perché cazzo quando non sei tranquillo è una cosa, è l'altra, ehi, uia, non ce la fai, no? Quando non sei tranquillo, perlomeno a me mi fa così, se sono sereno e tranquillo faccio quello che vuoi. Natali, ma non è che ti risolve i problemi, no, la sigaretta, anzi, te ne aumenta. Già lo so, non è che non lo sappiano. Adesso mi hanno trovato oltre l'aneurisma che ho, che è grande quanto una palla da tennis, sul renale, mi hanno trovato anche un nodulo sul renale e devo fare una ecografia, l'analisi di sangue che trova i cittadini. Cazzo. Maledetto. Purtroppo Natali, se la vi. Mannaggia le balle piene, dice a cazzo, da un infidare all'altro, boh! E vabbè, dai, se è per te, dai, curati, perché se uno si cura poi risolve le cose, se no, se si trascura è peggio. Già lo so, adesso cazzo non mi l'ecografia a ottobre, quando io devo andare a Brivi, devo andare, ma perché non vanno a fanculo? Adesso telefonerò martedì, vediamo un po' se mi trovano un po' a Plattamona a fare l'ecografia. Già me l'ha detto la dottoressa, se non riesce a fare l'ecografia, almeno le analisi del sangue mi curi. E così fa, avrà già fa. Ma se ci riesce meglio, perché dall'ecografia si vede tutto bene, capito? Se ci riesce meglio. Glielo dici quando stai prendendo l'appuntamento che è urgente. Perché non ti ha messo con urgenza? Cosa ne so, mi ha fatto la ricetta rossa, ma me l'ha fatta bianca. Mi ha fatto la ricetta rossa anche per le analisi del sangue, ce le ho rosse, tutte rosse sono, non sono bianche, quindi sono urgenti. Tu me lo dici, quando tu te ne fai per prendere l'appuntamento dice sì, c'è un posto, ma se ci ascolti, ma qualche cosa non si può, io glielo ho detto così. Poi mi ha richiamato, è stata bravissima, guarda, un'altra se ne sarebbe fregata. Gli ho detto guarda che a me mi serve urgente perché devo fare un intervento. E mi ha detto guarda io non ci ho posto, non so cosa dirle. Poi mi ha chiamato dopo una 15 decina di minuti, mi chiama, buongiorno signor Merlo, sì, ascolti, guardi che ho buscato un posto per domani, le va bene? Sì, no, ma che... E così è successo a me, però non mi chiamava niente, chiamavo io a rompire le balle, finza che mi l'hanno dato i rughi. Ma va, chi su di esi, mi l'hanno dato, ma cosa, si è cancellato un paziente, si era cancellato, infatti mi ha dato l'appuntamento oppure questa qui per non passare dal CUP, no, questa di Tisi, questa dottoressa. E va, vediamo un po', che tocca andare a torre a Tisi. Ma vediamo un po', da adesso cerchiamo di fare il tutto. A papà mi passeranno a pagare l'analisi di sangue, torra, ma non penso, Lattari, se li hanno pagati non ti fanno pagare, loro ti fanno pagare quando non li paga la sede, che è in ritardo, allora dicono io devo comprare il materiale, devo pagare i dipendenti, e come faccio? Se non mi pagano, purtroppo devo incassare qualche cosa per pagare. Sì, io lo credo, io già lo capisco queste cose, infatti ho pagato il mutuo, però cazzo mia voce a farne il bagano, lo so qui. Tu mi pare che vi paga qualche un'altra volta, vero? Sì, perché non accettano le esenzioni, mie, non lo buono, manco qua, lo so offendi, cazzo, abusivamente ti cosi. Non lo so, minatori, perché hanno attaccato anche il cartello, dopo 5 persone con esenzione, anche se l'esenzione non ti passano con esenzione, l'ho visto io il cartello, massimo 5 persone con esenzione, poi dopodiché devi pagare. Ah no, l'ultima volta tutti avevamo pagato, già l'ho visto anche io quel cartello, infatti ho pagato, perché sono arrivato il sesto, non pari, mira gli agenti, e quindi ho pagato. L'ultima volta tutti abbiamo pagato, non accettavano nessun tipo di esenzione da nessuno. Ma cosa vi ha fatto? Qualche ricevuta dei soldi che le date? Chi mi l'hanno infatti i ricevuti? Ma cosa mi ne posso? Io per dire le scarico con 7.30. E io non ne posso, né 7.30, né 7.40, né 7.1, un Kaiser, cosa posso? Se non va giù di là, che cazzo vuoi? Io non so. Meglio di me tu. Cazzo. Sono i maglioncini. No, vedi, piglio una cazzata di benzioni. Faccio il modello normale e basta, cosa 7.30. Cazzo, se non sto attento mi devo dare io. Poi a Bufulendi, che un anno io ho dato quasi 3.000 euro, perché dice che mi aveva dato soldi in più. A convene a fare i cosi, vai, cazzo, dimmi tu. Praticamente prendevo la pensione più lo stipendio della ditta. Se loro mi hanno aumentato la pensione, praticamente risultava in più di quello che dovevo prendere, della soglia massima. E mi sono dovuto pagare 2.998 euro tutte quante in una volta, perché se non le pagavo subito mi arrivavano le cartelle esattoriali. Così mi ha detto quella del capo, mi ha detto vada subito, la paghi subito prima che gli arrivano le cartelle. E se non ti vuole nella buccia, glielo so, Guglia, ma cosa hai superato l'Urvedi? Sì, ma fatta lì, cioè loro lo sanno, no, quanto prendo io, se vedono che non te lo posso dare, non te lo devo dare dall'inizio, non metterti nei casini dopo, e se non ci avessi avuto i soldi cosa avrei fatto? Così è, io devo 7.000 euro all'Inps per colpa di loro stessi, mica la colpa era mia, cazzo cosa ne sapevo io, dovevo andare a farmi bloccare la pensione quando lavoravo al comune, ci ho rimesso capra e cavoli, praticamente ho lavorato gratis. E non conviene fare altre cose, conviene sapere come sei, perché se fai un'altra cosa puoi fare un cumulo e ti fate ripagare la burra. Allora, 7.000 euro li devo dare a chi passaggi, oltre che mi hanno bloccato la pensione per 6 mesi, la 14ª me ne avevano preso, ma ne fatta a beffa. E magari li devi ridare, devi dire. E infatti non posso più nulla. Più nulla. casa mia, 67, me ne vado in pensione, si rabbiglianissimi. Ma in base a quello che hai lavorato ti danno la pensione, se hai versato pochi contributi ti danno il rimborso. Visto che mi tocca, già mi basta a me. Sì. Come se ti danno anche il reddito insieme alla pensione, va bene. Quando mi danno l'assegno sociale passa tutto quanto. L'importante è che tu devi pigliare manco un minimo indispensabile per non fare la fame, dice la legge. Ma non è solo mangiare, nella vita ci sono tante spese, non è che ci sono, loro pensano solo che tu debba mangiare, ma spese ce ne sono altre, ci sono i problemi della casa, se rompe una cosa, c'è la macchina, c'è la benzina, ci sono le ruote della macchina da cambiare, l'olio, questo e quell'altro, e non è che sia solo mangiare. Quando uno la busta a contatti la lampo la macchina, sai di tutto. Adesso sono le balle piene di tutto e di tutti già. Non me ne sbatte nulla. Non vedo andarmene in pensione almeno. Mi danno forse il burro di più di quanto devo, di quanto so come gli andava. Figurati. Il minimo mi sa che sono 1.000 euro adesso che da. Che me li diano, non mi sembra vero. Adesso ne prendo di meno. Vabbè. Però è un casino. Io ancora con la di vecchiaia non l'ho presa ancora. Fino a 67 anni non ne piglino. Se non vai a dare non ti mi dazzi, non ho venuto di là. Sei troppo giovane. E tu perché sei invalido, questo e quell'altro, te la danno, ma tu la pensione di vecchiaia la prendi all'età giusta, come giustamente hanno detto i francesi, non vogliamo finire come l'Italia. Cazzo, e ci sono la mintende per 64, noi siamo a 67 già, prima di 67 non puoi andare in pensione, che è una vergogna, a 60 anni lo devi mandare via uno e devi sostituirlo con i giovani, anche a 60 anni uno va a travagliare invece, poi già a 50 anni già non ti piglia più nessuno a travagliare, sicureggiati un po' carino, andando a 67. Gesù se l'ha da 54 anni in pensione, se l'ha goduta, 30 anni di pensione ce l'ha goduto, capito? Ma chi ci sono statali? Guru Mangattia se ne è andato giovane in pensione. Dice che pigliava più di pensione che di stipendio e se ne è andato in pensione. Edu, chi studia la polizia ferroviaria, Mattesi, perché prendevano più di pensione che di stipendio. Dimmi tu. E mio socio era lo stesso, prendeva più di pensione che di stipendio, bisognava più di 2.000 euro meno in pensione, mio socio. Vabbè, lui è andato via come ispettore, quindi era pagato meglio. Comunque a me mi spetta adesso, perché io ho 5 anni di scivolo, avendo un 80% di invalidità, ho diritto a 5 anni di scivolo e mi danno la pensione anticipata. Beato te. Riconosco in te ancora un minimo di coscienza. Se te la danno, meglio per te. Almeno prendi la pensione giusta che ti spetta. Non mi hanno lavorato nell'agosto dell'anno scorso, mi hanno mandato la lettera dall'INPS che mi aspettava dal primo agosto dell'anno scorso. Allora me ne arrivi da un'altra di lettera dicendomi che me la davano a giugno. E allora gli ho messo l'avvocato. Adesso vediamo cosa succede. E infatti, tanto belli in esempio i LIMS, perché hanno sempre torto, loro se la tentano, se la va la va. Sì, ma c'ho tutte e due le lettere, Lattarini, le ho presentate tutte e due, quella che hanno scritto loro che dal primo di agosto dell'anno scorso mi dovevano già pagare la pensione, avevo già fatto la visita e tutto. Mi hanno scritto che per l'invalidità ero passato, però per la vecchiaia no ancora, che me la davano dal primo agosto dell'anno scorso e non me ne hanno dato. Mi hanno mandato, ho fatto un'altra visita e mi hanno scritto da giugno di quest'anno. Cioè, allora si mille di i bondelli. L'avvocato dice, no, mi è già successo da altri, stia tutto a me, facciamo le fotocopie, gli mandiamo la lettera, vediamo cosa ci rispondono, secondo cosa ci rispondono gli facciamo causa. E ma perdono, l'Inps perde sempre perché ha torto. Ha torto Marcio. Perché se io li facevo a casa li pagavo qui su. Ma qui perdendi, cosa cazzo ne so qui che devo andare a farmi bloccare la pensione? Tu dalla prima di che io sono qui travagliendo, devi sapere, attendi Inps, che io sono assicurato dalla prima di chi entra a travagliare. Vogliono farlo loro in automatico, chi entra a lavorare, sospendere la pensione e poi ridargliela quando finisce. E per cui non è che uno può sapere tutte le leggi, tutte le cose. Ma in ogni caso, la tariffa, a me mi spettava da agosto dell'anno scorso, capito? Per cui adesso c'è tutto in mano l'avvocato, adesso vediamo cosa mi dice. Ehi, a t'arrivi con l'arretrato e a tutti dimmi, magari non riceveva manco un causa, chiedi dimmi e mollani. Infatti, speriamo che sia così. Se mi devo andare arretrati da agosto dell'anno scorso, fatti lungo. Quando ti hanno mandato la prima lettera che ti dovevano pagare, la data che ti toccava, mi si tocca nell'arretrato a te. E vabbè, e comunque in ogni caso Natali si va a bidare in luce. Io tanto la pensione ce l'ho e grazie a Dio campo bene con questa pensione, però se mi danno l'altra sarà sempre di più. Mi illusi? Ah, già te la danno, e se ti toccano gli arretrati almeno ti metti qualcosa in banca. Via. Allora, gli tengo a misura la roba dalla banca, pure i rivizi. Sono così applicabili, ogni mese devo togliere sempre fare la spesa, sempre. A chi bisogna spese? Chi ti ho messo in me, per esempio? Ma io tanti di chi ti spese tu non te lo puoi immaginare. E so che senza manco ti comprare. Ma vabbè. E anche a me mi è arrivato telefono, luce, grandi bussoli, una serie di spese, ci avevo anche l'assicurazione della macchina, insomma, le spese fisse che adesso dovrò arrivare alla tassa blondezza, quello lì che mi sto temendo. E a me mi arrivi la stessa cosa. No, noi siamo tutti in mano a Ghisi. Non ho fatto, è stata indisposta. E Ghisi, è telefono, è Luzi, è tassa blondezza. E leva, tu. Bullette a nastro la vigilino, mi sembra pagare. Tu il telefono fisso ce l'hai. E allora ce l'ho il telefono fisso, perché c'ha internet e c'ha il telefono fisso lì. Adesso io stavo pagando un'enormità. Hanno telefonato dura tra di me, hanno già maturato la rifa, a chi l'ha giocato mi candaro, a chi cura di me, lo pagando cazzo un'enormità. Di bolletta 69 euro pagavo fisse, ogni mese. E io lo pago così, io c'ho ancora a fare la stessa cosa, con i due mesi quel tanto lì pago. Infatti me lo volevo staccare perché tanto uso il telefono, le connessioni dati, quindi cosa me ne importa del telefono in casa? Sarebbe per usare il computer, non le sto usando il computer, uso più il telefono per entrare in internet che il computer, quindi conti fatti non conviene più tenerlo. E infatti cosa cazzo ne vai? Hai un lato mi avevo fatto staccare tutto, una bulletta di mano. No, ma a me me l'hanno abbassata a 36 adesso, al mese, perché ne pagavo 69 ogni mese. Io. Armando per questa cena? No, io ogni due mesi la pago. No, ogni mese 69, cazzo, è un furto. E infatti mi hanno cambiato la tariffa, 36 dovrebbe arrivare, capito? Che è sempre un furto, a chi mi raggiudizio che la stanno dando a 20 euro l'internet, la sordendi. La giudizio di così è subito mi ha cambiato la cosa, se no chi tu si nanda. Infatti la giudizio che viene pure andare. Infatti sta capito se ce l'abbigliava in come di vostra mano. E ogni tanto chiamano, qua stamattina ha chiamato Tim e poi mi faceva lo stesso prezzo di quello che sto pagando, tanto male che mi metto a smontarmi tutto, a far mettere un altro router, eccetera, eccetera. Lasciamo perdere. La stessa cifra che pago con questo, pagavo col team, quindi cosa sto a fare? Sì che c'è la convenienza, però magari paghi di meno, non rende come rendere questo qui, la ma tu se non ne usi, staccamelo, te ne togli una bolletta già, non te ne fai un cazzo se tu non usi internet col computer, cosa te ne fai? Staccane tutto, burro da...